Allora, a caldo, dopo aver visto ancora i video di Roberto Mancini e aver poi sbobinato i testi, lavorato su questi, posso darvi una prima lettura, una prima interpretazione, una cosa che mi ha colpito come esponente della nostra associazione. Allora, neoliberismo, proprio in sintesi, il neoliberismo è radicato, sapete in che cosa? Nell'ostilità, non nell'amicizia. È radicato nell'idea dell'indegnità dell'uomo, non della dignità. Dignità vuol dire che un uomo è una persona tendenzialmente onesta, con dei valori, con dei principi, e che quindi facilmente collabora con gli altri, in grado di avere relazioni oneste, sane, di amicizia. No, il neoliberismo è proprio il contrario. Sposa il mito homo homini lupus. E infatti, Roberto Mancini individua il mito fondativo del neoliberismo, se vi ricordate, in questo triangolo, homo economicus, che è un modo gentile per dire homo homini lupus, natura vara, che è un modo di dire natura ostile, e infine l'angoscia della morte, che è un modo gentile per dire ostilità dell'uomo alla vera vita, perché l'angoscia della morte non nasce in tutti, nasce nelle persone che sono ostili alla vita, non hanno quindi, non sono entrati dentro la logica della vita, che è la logica del dono e del bene agli altri, della fraternità. Quando noi ci occupiamo del bene nostro e degli altri, l'angoscia della morte se ne va, sparisce. Come dice Angela Volpini, una mistica cristiana, nostra amica, quando gli si chiede: ma la paura della morte? Dice: io non mi occupo della paura della morte, mi occupo della pienezza della vita. Quando noi facciamo una vita piena, ricca di relazioni armoniche, semplicemente la paura della morte non c'è, punto. Bene, allora il neoliberismo, si fonda su questo triplice mito, nell'interpretazione di Roberto Mancini, che, detta in termini molto semplici, eccolo qua: l'uomo ostile all'altro uomo, l'uomo ostile alla natura ostile, uomo ostile alla vita ostile, ecco, che non ha capito la logica della vita. La logica della vita, che è la logica della risonanza, non è presente nel neoliberismo. La logica della vita, che è la logica della connessione, del pensiero ubuntico, ogni cosa è collegata a tutte le altre, non è presente. La logica dell'amicizia come legame non è presente nel modello neoliberista. Ricordiamoci che il modello neoliberista è una dottrina del tutto, non è quindi un modello economico, è un modello che comprende tutti gli aspetti della vita, compresa quindi anche la psicologia e l'antropologia. La visione antropologica del neoliberismo è quella che vi ho appena detto. Homo homini lupus, tradotta nei termini più gentili, homo economicus, cioè l'uomo che è egoista, interessato solo a sé. Allora, il presupposto appunto è che l'uomo è fatto di legno storto e ed è indegno di fiducia. Può esserci fiducia tra gli uomini quando le leggi creano le condizioni per cui ci siano vantaggi a, come dire, a essere onesti, altrimenti l'uomo è per sua natura egoista e disonesto. Allora, qual è la via del neoliberismo, data questa premessa? Ma è la competizione di chi? Di tutti contro tutti. La maschera della competizione, perché in realtà è una guerra, è una lotta. La maschera perché si dice attraverso la competizione l'uomo dà il meglio di sé. Ecco, se non compete, no, è un essere pigro, sfiduciato, incapace di relazione e di bene. Quindi non dà il meglio di sé. Il meglio di sé lo dà solo nella competizione. Questo è il mito. Ora, questo mito, questa cultura è diventata legge oggi, attraverso il trattato di Marrakesh, la globalizzazione dei mercati finanziari, dei mercati che non sono i mercati dello scambio e i mercati appunto in cui gli esseri umani si scambiano della reciprocità, per intenderci, perché l'umanità ha sempre vissuto dentro un mercato, salvo i primi periodi, lo scambio c'è sempre stato e anche lo scambio ha consentito il collegamento tra le culture, no? Ma oggi il mercato non è il mercato della reciprocità, ma è il mercato guerra. Ecco, questa è l'essenza del neoliberismo. E com'è che sta in piedi? Beh, perché è diventato un dispositivo impersonale, è una macchina burocratica che Max Weber chiama ormai gabbia di ferro, che a differenza della nota o mito della caverna di Platone, da questa gabbia di ferro non si può uscire. Dalla caverna di Platone con difficoltà si può uscire, da qui non c'è niente da fare. E Heidegger rinforza la dose dicendo soltanto un Dio ci può salvare. Questa è la visione, una visione pessimistica condivisa dagli gran parte di intellettuali di oggi. Allora, oggi quindi abbiamo nell'epoca della cosiddetta morte delle ideologie, fine delle ideologie, in realtà abbiamo l'ideologia più perniciosa che ci sia mai stata, perché diventa totalizzante, è l'unica ideologia. Non si può che accettarla, che adeguarsi a questa ideologia, perché non appare come ideologia, guardate qua, ma viene vista come natura. Mercatus sive natura, nei termini di Spinoza. Cioè il mercato non è qualcosa che si può evitare, come non si può evitare il cambio delle stagioni. Quindi la competizione di oggi non si può evitare, punto, fine. Non è prodotta dall'uomo, è prodotto un fatto naturale, è l'unico stato possibile. Perché? Perché il comunismo è morto, il socialismo non ha funzionato, l'unico che è resistito in piedi è il capitalismo, che è diventato, sempre senza più avere limiti, senza più dover contenersi, perché aveva comunque un'alterità con cui confrontarsi, l'umanità sapeva che c'era un'altra possibilità, adesso quest'altra possibilità dopo l'89 è crollata e tutto il mondo è diventato neoliberista, non ha alternative. Il punto centrale, there is no alternative. Questo è il punto. Questa della non possibilità di alternative, il neoliberismo lo condivide con le mafie, perché anche per le mafie non c'è alternativa. La mafia ti fa capire che non c'è alternativa. Ecco, questi sono i modelli più totalitari che esistono. Okay. Bene. Allora, pensiero unico, unica ideologia che si pretende alla fine delle ideologie, è una visione totalitaria, è il capitalismo totalitario. In effetti, quali sono le evidenze? L'universalizzazione del valore merce, cioè tutto diventa merce, compreso gli uteri, compresi gli organi dei bambini, compresa la droga, tutto diventa merce, tutto contribuisce alla crescita del PIL. Okay? Quindi diventano merci in primo luogo gli uomini, il lavoratore diventa una merce, quindi l'impresa non si deve preoccupare dell'essere umano che lavora dentro l'impresa, perché semplicemente è una macchina, è un funzionario di un apparato. Okay. Naturalmente anche la natura diventa merce, nel senso che non abbiamo nessun dovere nei confronti della natura. La natura che cos'è? È un deposito di materie prime. Allora tutto viene sacrificato al dio mercato, guerra, che è una guerra economica e finanziaria. Ora, com'è che questo apparato riesce a stare in piedi, che non è possibile, come ci dice Max Weber, uscire dalla gabbia di ferro? Principio che la maggioranza di intellettuali sembra accogliere, facendo in questo modo quella che Lukács chiama apologia indiretta dell'esistente, in modo che non possa essere vista la sua trasformabilità. Com'è che appunto il neoliberismo è blindato, non sembra poter esserci resistenza al suo diffondersi ovunque? Beh, ma è molto semplice, perché il neoliberismo ha proceduto a una colonizzazione delle menti umane. Vedete, è la prima volta nella storia in cui un sistema di potere riesce ad agire sulle persone in modo così capillare, rendendole favorevole al suo perseguimento. Ecco, in passato comunque qualche azione di forza il potere l'ha sempre dovuta fare, quindi la violenza compariva. Adesso il neoliberismo ne può fare a meno, perché i migliori sostenitori del neoliberismo sono proprio le sue vittime. Come nel film Il buono, il bello, il brutto e il cattivo, dormo sonni tranquilli perché su di me veglia il mio peggior nemico. Cioè il neoliberismo dorme sonni tranquilli perché su di lui vegliano i suoi perseguitati, cioè i suoi nemici. Quindi non c'è più una resistenza al neoliberismo, non c'è proprio, se non talmente minoritaria che il neoliberismo può tranquillamente trascurare. Allora, le persone quindi non sono più persone che scelgono, perché per scegliere ci vuole un'alternativa, ma sono persone che nemmeno credono in questo sistema. Ecco, in passato i totalitarismi si presentavano come perfetti. Il neoliberismo non ha bisogno di fare questo. Mostra tranquillamente i suoi terribili difetti, fame nel mondo, carestie, disastri di ogni tipo. Tanto non c'è alternativa. Ecco, e le persone non hanno bisogno di credere. È superato l'elemento religioso. Non è che il neocapitalismo è un idolo a cui qualcuno crede. Magari ci sarà qualcuno che crede, ma non c'è bisogno di crederci. Perché abbiamo superato il periodo del bisogno di credere. Siamo tutti diventati funzionari, le persone funzionano, quell'apparato è impersonale e le persone, usando il banco, accendendo la televisione, pagando le bollette dell'acqua e così via, non fanno che continuamente votare per la prosecuzione di questo sistema impersonale e assoluto. Bene, adesso vi faccio vedere un'alternativa. Perché se no è del tutto inutile un discorso così, questo è stato fatto infinite volte. Questo, se io mi fermassi qua, questo sarebbe un'apologia dell'esistente, come tanti ne esistono. E qui cito Fusaro, un grandissimo filosofo a mio modo di vedere, che in età giovanissima riesce a essere estremamente chiaro su questi temi, quindi vi invito a vedere i suoi video, poi li metteremo sul nostro sito. Allora, ecco perché sembra non esserci alternativa. Invece noi l'alternativa dobbiamo farla vedere. Fusaro dice che la mancanza di alternativa nasce da una precisa colonizzazione mentale che nasce da non solo neoliberista, ma che ha una lunga storia nella modernità. Ecco, quindi di questo ne parleremo un'altra volta. Adesso vi faccio vedere un'alternativa. Questa è la prima cosa. Senza alternativa, appunto, nei termini di Fusaro, questa non sarebbe una delle tante apologie dell'esistente. Però cito parole eterne, quelle di Gesù, quando dice: io sono la verità, io sono la via, io sono la vita. E naturalmente vanno interpretate. Sono la verità, cosa vuol dire? Che io mi nutro di relazioni armoniche, sono figlio di Dio, sono l'esponente di Dio sulla terra, sono l'uomo che si è divinizzato, cioè sono quell'uomo che ha rinunciato a ogni forma di violenza e potere. Quindi ho incarnato il divino dentro di me, che sono delle relazioni armoniche. Punto 1. Punto 2. Io sono la via, cioè io vi indico il modo per fare come me. L'imitatio di Gesù, no? Voi, quando Gesù dice amatevi come io vi ho amato, quindi lui dice è l'amore che genera le relazioni armoniche, voi fate come io ho fatto, vi ho indicato la via. Poi dice la vita, io sono la vita, vuol dire io sono la vita piena, che è fatta appunto di relazioni armoniche. Cosa vuol dire vita piena? Vita pienamente vissuta vuol dire una vita che si incrementa giorno per giorno, che accresce giorno per giorno, attraverso l'incremento delle relazioni armoniche. Più amicizia, più amore per le persone, per gli animali, per le piante, per il mondo, per le attività che svolgiamo, più passione in ciò che facciamo, più pienezza, più soddisfazione. Una persona che vive una vita piena non si occupa della morte. Non c'ha il tempo, non se ne occupa proprio. E poi una persona che fa una vita piena è piena di relazioni, di affetto, quindi il suo ego si scioglie nei nostri termini. Muore la morte dell'anima, della mistica, come intenderci. cosa succede? Che morte d'anima vuol dire nella mistica la morte dell'ego. Perché? Perché si identifica nella sua vera anima, nel fondo dell'anima, secondo la mistica, nel quale il fondo dell'anima è interessato a che cosa? A ciò di cui parlava Gesù, cioè la verità, la via e la vita, cioè incrementare le relazioni armoniche dentro e fuori di sé. Questo significa seguire l'insegnamento di Gesù. Bene. Se adesso andiamo a vedere questi tre punti, la verità, la via e la vita, vedrete che il neocapitalismo è esattamente il contrario, perché tutto ciò che dice il neoliberismo è falso. È falso che gli uomini siano ostili per natura gli uni agli altri. È falso. Perché ce lo dicono le scienze sociali, perché ce lo dicono le sapienze antropologiche di cui vi ho già parlato, coerenti tra di loro, che tutte sostengono il fondamentale dignità dell'essere umano, di ogni singolo essere umano, il valore assoluto di ogni essere umano, perché ogni essere umano ha in potenza la piena realizzazione di tutte le qualità dell'essere. Questo è ciò che le tradizioni sapienziali ci indicano. Quindi una visione completamente diversa da quella cupa e mortifera del capitalismo totalitario. Okay. Due, io sono la via. Anche qui loro dicono qual è la via. Il neoliberismo, la via è la competizione di tutti contro tutti. Cioè io ho un'azienda, tu ne hai un'altra, io devo crescere e sono bravo se riesco a crescere così tanto da portare via i tuoi clienti, in modo da farti rimpicciolire o addirittura chiudere. In questo modo io sopravvivo. Se non faccio così, lo farai tu. E se lo fai tu, io muoio economicamente. Okay? Questa è la via del neocapitalismo, che è l'opposto di quella indicata da Gesù. Non a caso Gesù parlava di comunità. Ecco. Tutte le tradizioni sapienziali hanno sempre fatto leva sulle comunità. Comunità cristiane, nella tradizione, non so, di Epicuro, il giardino di Epicuro, in Aristotele il rapporto tra filosofi, nell'Oriente il Sangha, la comunità come necessaria partecipazione per poter diventare pienamente se stessi. Mentre nella tradizione filosofica che ha portato al disastro neoliberista, cosa si è successo? Che si è scissa l'identità dall'appartenenza, la competizione fa sì che io punti tutto sulla mia identità, su chi sono io, cioè un'identità narcisistica scissa dagli altri, che porta naturalmente a che cosa? Alla fine delle comunità. Infatti una delle evidenze del neoliberismo è che tutte le comunità vengono distrutte, proprio vanno a pezzi. Dove arriva il mercato di questo tipo, il mercato guerra, le persone cominciano a combattere tra di loro. Arriva al supermercato, tutti i negozietti chiudono e tutte le persone perdono lavoro. Pazienza, si dice, così faranno un lavoro migliore. Infatti si vede, la disoccupazione è terribilmente in aumento. La terza cosa, l'abbiamo già detta, Gesù dice, sono la vita, cioè l'insieme delle relazioni armoniche, e il neocapitalismo ci sta dicendo che quella sua concezione della vita è una concezione di lotta. Homo homini lupus, homo natura lupus, lupo anche per la natura, cioè lupo in senso senza offendere i lupi. Ecco. Bene. Allora, una volta capito che ci sono delle alternative, vi ho parlato della tradizione nostra, cristiana, che però vi ho detto anche che è coerente con tutte le grandi tradizioni sapienziali, con tutte, anzi, le sapienze antropologiche dell'umanità che sono coerenti su questi punti. Allora, adesso, qual è il passaggio? Perché abbiamo bisogno anche di atti, di azioni concrete. Ebbene, e lì Roberto Mancini, a mio avviso, tocca il centro del bersaglio. Non è facendo convegni, non è scrivendo libri, non è facendo discussioni come queste che se ne esce. Certo, questo può orientare il nostro io, toglierci magari qualche opinione falsa, questa conversazione sto facendo, ma in realtà il punto centrale è questo, cioè occorrono esperienze concrete di umanità, vissuti sulla propria pelle, sulla propria carne, bisogna creare contesti dove si può recuperare il senso di fratellanza, il senso di intimità profonda con l'altro essere umano. Non solo in famiglia, perché in famiglia anche lì a volte è difficile, ma con altri esseri umani, in gruppo, anche persone che non conosciamo. Bene, fare queste esperienze in cui ci rendiamo conto che noi, quando siamo in condizioni di apertura del cuore, siamo persone completamente diverse dalla descrizione che il neoliberismo dà della natura umana, e quando facciamo queste esperienze ci rendiamo conto che lì troviamo la pace, lì troviamo la serenità, mentre qui troviamo l'angoscia, l'angoscia di morte, l'angoscia del conflitto, la paura. Questa è un'economia che si basa sulla paura. Ricordatevi che il neoliberismo ha come obiettivo da distruggere, l'obiettivo centrale, la distruzione dello Stato sociale, cioè di ciò che protegge le nostre vite, di ciò che è ancora rimasto di quel poco di comunità e solidarietà. Ecco, l'obiettivo è distruggere lo Stato sociale, in modo che tutti abbiano veramente paura e siano tutti in competizione. Okay? Allora, queste esperienze di umanità, di relazioni armoniche, perché non siano saltuarie e quindi producano poi una fiamma che poi si spegne subito dopo, ecco, in base a ciò che ci viene insegnato dalle sapienze antropologiche, ha bisogno di tre elementi fondamentali. E questi Mancini molto chiaro su questo. Uno, l'adesione. Due, l'armonizzazione. Tre, la condivisione. L'adesione vuol dire che io posso fare anche un'esperienza, che ne so io, di biodanza, un'esperienza di pratica di gruppo, di condivisione, in cui sto benissimo, ma poi, se non c'è un'adesione vera del proprio cuore a queste esperienze, non succederà nulla nelle nostre vite. Allora lì cosa si intende adesione? L'adesione vuol dire che la mia volontà unificata, quella che Feuerstein chiamerebbe intenzionalità, cioè capite, quando i vettori miei si uniscono almeno su un punto, almeno uno, che io voglio cambiare la mia vita, che io voglio trasformare la mia vita dalle relazioni distruttive alle relazioni armoniche di amore. Su quello io devo essere convinto. Ecco, naturalmente se non lo sono, mi potrà essere utile leggere dei testi, seguire conferenze, leggere, ma poi o c'è questa adesione, e questa adesione si stabilizza a sufficienza, quindi vuol dire che c'è almeno un io centrale, un nucleo, un magnete, che mi tiene sul binario, altrimenti queste esperienze che io posso fare anche per 40 anni non mi cambiano. Faccio un po' di esperienze e poi ritorno alla vita di prima, e se rimango quello di prima, sono sempre in conflitto, da una parte so che cos'è il bene, e poi persino San Paolo poi diceva, e poi continuo a fare il male. Cioè so che cosa mi fa bene, ma non ho l'intelligenza della meba che mi dice se mi fa bene lo faccio. No, l'intelligenza umana non è così. So ciò che mi fa bene, ma sono condizionato dai miei istinti appresi culturalmente a fare l'altro, a fare ciò che mi fa male, anche perché facendo ciò che mi fa male mi sento appartenente alla cultura dell'assoluta maggioranza. L'assoluta maggioranza delle persone di oggi è frantumata e quindi non è veramente in un cammino, anche se molti di loro sono già in ricerca. Quindi oggi il compito di chi vuole aiutare questo processo è di individuare le persone in ricerca e dargli qualche strumento. Per questo che noi stiamo mettendo tutti questi video. Ha questo scopo, cioè dare queste informazioni, sapere che esistono queste cose. Ecco. Allora, la prima quindi l'adesione, la seconda è l'armonizzazione, in realtà poi Mancini fa un po' diverso, ma io faccio sta sintesi. L'armonizzazione cosa vuol dire? Se io aderisco, però poi, se io non cerco di armonizzare la mia personalità, se non cerco di diventare uno in questa adesione, non sono presente nella vita, non sono presente al progetto, non sono assolutamente affidabile. Faccio un passetto e poi lo distruggo, faccio un altro passetto e poi lo distruggo. Allora l'armonizzazione vuol dire che io passo da una vita disarmonica, da una mente frantumata, incoerente, a una mente che via via diventa sempre più integra, cioè intera. In pratica tutti gli animali sono integri, siamo solo noi esseri umani a non essere integri, perché abbiamo questo potenziale del pensiero libero che ci emancipa dagli istinti, ma quindi non abbiamo la natura che ci guida all'integrità. Il gatto, il cane, il topo hanno una natura che li sostiene verso il cammino, verso l'integrità. Noi esseri umani no. Noi esseri umani siamo in grado di vivere una vita totalmente falsa, corrotta, scissa, in frammenti. Terzo passaggio, e con questo concludo, è la condivisione. Fare queste cose da solo, armonizzarsi da soli, aderire da soli, crea un solipsismo che può essere tossico. Anche un gruppo che si ritira, che fa le sue cosettine in qualche posto separato, fa i suoi convegnini, mentre magari un altro gruppo ne fa nella casa accanto, nella sala accanto, senza creare la condivisione, ebbene, senza il meccanismo della condivisione non si dà alimento a che cosa? A questo, alla connessione. Soltanto quando comincio a condividere veramente, pienamente le mie cose, io armonizzo me stesso mentre gli altri si armonizzano con me. Faccio un'esperienza di vita condivisa e metto insieme la mia identità e la comunità a cui appartengo. Cioè comincio a creare comunità. Non esiste solo la comunità esterna, questa la capiscono tutti, esiste una comunità interiore. La comunità interiore è se comincio ad avere dei principi a cui tutte le mie parti via via aderiscono. Allora sarò una comunità. E come sono una comunità interna, così posso essere membro affidabile di una comunità esterna. Cioè quando dico una cosa, sarà quella. E non sarà come adesso che dico una cosa e poi ne faccio un'altra. Ecco. Va bene, credo quindi che di poter ringraziare il professor Mancini per questi splendidi video che io vi invito a rivedere più e più volte, perché non basta certo vederli. Questi vanno studiati, avrete i testi sbobinati da noi e altri interventi miei o di altri su questo tema. Grazie a tutti.